E all'interno del nostro Fujiko Factory apriamo settimanalmente un'inchiesta sull'impatto che ha avuto questa pandemia sul settore musicale, ma soprattutto sui locali e sui promotori della musica dal vivo. Oggi avremo un'intervista a Locomotive. Locomotive lo troviamo in via Serli a Bologna, uno dei locali ormai storici della città, sempre orientato verso le proposte estere. È un punto di riferimento per tutta la comunità di Bologna e per chi soprattutto vuole esplorare nuovi linguaggi musicali. Durante questo periodo gravato dalle intemperanze derivate dalla pandemia, l'ingresso e la fruizione degli eventi culturali ha subito un drastico cambiamento che ha rivoluzionato il concetto di aggregazione che ha sempre caratterizzato il locale. Infatti, molti concerti sono stati annullati o rimandati e il numero di partecipanti è stato ridotto. Discoteche chiuse e mascherine obbligatorie all'aperto nei locali. Stretta del governo per contenere la diffusione del coronavirus in seguito all'aumento negli ultimi giorni dei casi positivi. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Un reddito di continuità che possa, tra un contratto e l'altro, dare uno strumento di reddito ai cittadini, professionisti e professionisti dello spettacolo. La musica dal vivo ai tempi della pandemia. Benvenuto sulle nostre frequenze a Giovanni Gandolfi che ci racconterà un po' del Locomotive. Buon pomeriggio, come stai? Bene, grazie, ciao a tutti gli ascoltatori. Come raccontavamo un po' prima, a causa di questo periodo difficile che stiamo vivendo, siamo stati costretti a modificare il calendario degli eventi e a rivoluzionare il concetto che vi ha sempre contraddistinti, che è ovviamente l'aggregazione sociale. Che impatto ha avuto nei confronti del locale e soprattutto quali misure avete adottato? Ma noi chiaramente abbiamo fatto l'ultimo concerto al 21 febbraio, direi che sono stati i Big Thief, e poi di fatto siamo stati congelati come un po' tutti, anche se un po' prima degli altri, visto che il nostro ambito è quello che è stato chiuso per primo, diciamo. E poi in realtà, da quando abbiamo ricevuto notizie che in qualche modo si poteva ricominciare con il decreto di maggio, si poteva cominciare dal 15 giugno a fare nuove cose, ci siamo in qualche modo adattati a quelle che erano le regole nuove. Abbiamo fatto comunque una rassegna d'estate, tra l'altro tanto siamo stati praticamente i primi in Italia a partire proprio il 15 di giugno, che era il giorno in cui si poteva ricominciare, e poi abbiamo fatto un appendice anche a settembre, sempre all'aperto, con il festival che facciamo tutti gli anni, che è tutto molto bello. E quindi diciamo che in qualche modo, con le nuove regole e soprattutto aiutati dal fatto che i concerti si potevano tenere all'aperto, siamo riusciti in qualche modo a lavorare noi e far lavorare le maestranze, chiamano, ovvero tecnici e tutto il nostro personale in qualche modo. Chiaramente la parte autunnale era quella più temuta, perché c'è un po', diciamo, di aria di terrorismo mediatico, cioè certe volte giustificato, altre un po' meno, che riguarda gli spazi al chiuso, per cui avevamo un po' il timore di cosa poteva succedere al Locomotive. Anche in questo caso, come abbiamo fatto per l'estate, abbiamo deciso comunque di buttarci in qualche modo, e una volta uscito il decreto, che era un po' atteso da tutti, abbiamo capito che potevamo comunque continuare a svolgere le nostre attività, anche se modificate in maniera radicale, soprattutto per la modalità di fruizione sicuramente, e anche per la capienza, che ovviamente non è più quella di prima, e dal momento che dobbiamo fare stare sedute le persone, per cui cambia un po' faccia il Locomotive, diciamo che diventa un po' un piccolo teatro in qualche modo, aiutato anche esteticamente dal fatto che abbiamo sempre avuto un palcoscenico con il sipario e le quinte, per cui insomma prestava anche abbastanza già la location per interpretarla in maniera seduta e chiaramente distanziata. In questo periodo l'industria musicale sta però anche puntando molto sullo streaming. Può essere un'idea, non so, voi ci avete mai pensato di avere un contatto virtuale con il pubblico, anche se sappiamo anche noi sicuramente è sradicare completamente quello che poi è la musica dal vivo? Ma noi nella fase iniziale del lockdown, diciamo, dove c'è stato qualche esperimento, non ci siamo cimentati, perché comunque è un po' l'opposto di quello che è il nostro lavoro abituale, o meglio di come era il nostro lavoro prima e di come speriamo che torni ad essere prima possibile, che è quello proprio di vivere esperienze l'esperienza del concerto fisicamente, perché è un tipo di esperienza che non è riproducibile in altri modi, come può essere un film che visto in sala o sul divano chiaramente è differente, ma più o meno ci può stare. Su un concerto dal vivo obiettivamente è tutta un'altra cosa. Detto questo, dopo un po' comunque abbiamo fatto qualche esperimento, in particolare col progetto Viralissima, che era un progetto della Regione Emilia-Romagna, per cui abbiamo ospitato dei concerti a porte chiuse che sono stati registrati a audio che video e poi trasmessi appunto nella televisione della Regione Emilia-Romagna. E in sostanza siamo comunque attrezzati e pronti anche per fare esperimenti di quel tipo, magari affiancati a comunque l'esperimento col pubblico, nel senso che avendo una capienza magari ridotta in certe occasioni ci possiamo immaginare che, non riuscendo magari a far entrare delle persone che vogliono assistere al concerto, si può pensare di fare anche una versione streaming dello stesso e quindi rendere possibile anche per chi è in casa di vederlo comunque questo concerto. Sicuramente l'aspetto qualitativo del prodotto streaming è abbastanza importante, fa un po' la differenza, diciamo, anche per uno che decide di guardare un concerto sullo schermo di un computer o di una televisione, per cui ci siamo attrezzati, ma già lo eravamo, con uno studio di registrazione e anche con una regia video adesso, per cui è sicuramente una parte che stiamo sviluppando, ma più intesa come cosa parallela che sostitutiva obiettivamente. Beh, assolutamente, anche perché appunto la musica dal vivo, come stai dicendo anche tu, non può essere assolutamente sostituita in qualche modo, però magari può essere una valida alternativa per questo momento. Tu hai giustamente parlato di regione, quindi volevo chiederti, lo Stato, la regione o comunque il comune di Bologna hanno messo in atto delle agevolazioni nei vostri confronti? Direi di sì, nel senso che sia a livello statale ci sono stati comunque dei provvedimenti e dei contributi che non sono magari venuti fuori subito, ma dopo un po' sì, e noi avevamo, diciamo, le caratteristiche per avervi accesso. Sull'aspetto, diciamo, locale, appunto, se invece per quello che riguarda Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, si sono dimostrati molto aperti alle proposte che venivano fatte, per cui comunque c'era un aspetto creativo da parte nostra che in qualche modo cercava una sponda di aiuto da parte delle istituzioni, che noi devo dire abbiamo trovato sia a livello regionale che a livello comunale. Certo, noi ti ringraziamo, noi porteremo avanti questa inchiesta sull'impatto che comunque questa pandemia ha avuto. Noi siamo un programma musicale, parliamo ovviamente anche noi spesso di concerti, siamo stati al Tutto Molto Bello e anche noi ci aspettiamo e speriamo di poter tornare a raccontare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici la musica dal vivo, ma soprattutto diamo pieno sostegno a tutto il lavoro che voi fate ogni giorno. Bene, grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao.